Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Siamo a Trieste, ascoltatrici e ascoltatori, inequivocabilmente a Trieste, perché siamo qua, Chiara, con la piazza. Piazza dell'Unità davanti a noi, il mare in fondo, il molo audace, insomma. C'è tutto questa piazza. Non potremmo chiedere di più, forse. Che giustamente viene definita una delle più belle d'Italia, e infatti è così. Siamo qui a Trieste perché a Trieste c'è Trieste Next, ma probabilmente molti ascoltatori già sanno, perché la radio ha fatto tutta una serie di cose su questo appuntamento, che è un appuntamento dedicato all'innovazione, alla ricerca scientifica, e che ha al suo interno in particolare un focus anche su ciò che è cibo, alimentazione, che riprende un po' il tema anche di Expo 2015, insomma. Esatto, niente è fatto anche a caso. Però adesso cosa il abbiamo? Il menù, direi, della trasmissione. I titoli. Questa settimana le domande impossibili sono due e ci arrivano da Edoardo e Samuel. Si interrogano entrambi su fenomeni ottici e sulla propagazione della luce. Si dice sempre «dimmi come mangi e ti dirò chi sei». Qui a Trieste Next, il salone dell'innovazione, si ragiona invece su tutti quei cibi che non mangiamo per motivi etici, religiosi e di salute. Lo scoiattolo grigio americano sta portando all'estinzione lo scoiattolo rosso europeo. Eccezionale collegamento di Mebius con una webcam nella tana dello scoiattolo rosso durante un furto di ghiande. Robot domestici e tessuti al plasma atmosferico sono alcuni dei progetti di giovani ricercatori presentati qui a Trieste. Eccoci. Va bene, anche se iniziamo. Siamo fuori piazza, iniziamo sempre con la domanda. Perché noi, insomma, gli ascoltatori sono il nostro pane quotidiano, tanto per rimanere in tema alimentare. Quindi direi di partire con le domande degli ascoltatori. Questa settimana, straordinariamente, perché è tutto straordinario, ne abbiamo due, perché hanno, diciamo, un fil rouge che li tiene insieme, che è un po' l'astrofisica, l'ottica, insomma, poi arriveremo al punto. Sentiamo le domande. Andiamo prima con la domanda di Samuel. La mia domanda è sui raggi di luce che passano tra le nuvole e creano una raggiera di fasci divergenti dal sole, perché a me è sempre stato insegnato che i raggi solari si possono considerare paralleli dal punto di vista della Terra, e dunque mi aspetterei siano paralleli anche in questo caso. Vi ringrazio. E ora Edoardo. Salve, io volevo sapere perché quando si guarda una località di notte da circa una ventina di chilometri di distanza le luci sembrano delle fiammelle tremolanti, mentre invece quando si guardano le stelle, che sono molto più lontane, hanno la luce fissa. Beh, dai, quesiti di ottica, fisica, astrofisica. E allora noi cosa abbiamo fatto? Dove siamo andati a cercarlo? Direttamente in loco, insomma. Anzi, è venuta lei a cercarci. È la dottoranda di astrofisica, giusto, della SISSA qui di Trieste, quindi sei di qua. Noemi Frusciante, ciao, benvenuta. Ciao a tutti. Benvenuta fra noi. Allora, praticamente il 70% della pittura barocca è fatta di nuvole da cui escono raggi in tutte le direzioni. In maniera divergente. In maniera divergente, esattamente. Allora, cosa iniziamo? Partiamo con la prima, sui raggi. Vai. Va benissimo. Allora, innanzitutto chiariamo per quale motivo i raggi si propagano parallelamente. Allora, quando consideriamo una sorgente di luce molto distante da noi, come in questo caso può essere il Sole dalla Terra, possiamo considerare quella che viene definita approssimazione di raggi paralleli, cioè i raggi si propagano in un mezzo omogeneo secondo linee rette. In realtà i raggi solari ci arrivano a noi in linea parallela soltanto da una piccola porzione della superficie solare. Ora, i raggi solari, quando arrivano a noi, compiono un lungo percorso. Arrivati sull'atmosfera, diciamo che incontrano una specie di percorso ad ostacoli. Questi ostacoli sono formati dalle molecole dell'atmosfera, dalle goccioline di acqua, oppure da particelle solide dovute, non so, agli scarichi delle auto e così via. Quindi cosa succede? Quando questi raggi solari arrivano sull'atmosfera, subiscono delle deviazioni dal loro percorso e quindi creano fenomeni ottici molto belli, come può essere l'arcobaleno, non so, lo stesso colore blu del cielo, oppure, visto che parliamo di nubi, Il colore bianco, ad esempio, delle nubi. Che cosa succede? Che poiché le nubi sono formate da goccioline di ghiaccio e di acqua, quando i raggi solari giungono sulla loro superficie vengono riflesse dando il colore bianco. Ora, il colore delle nubi può anche variare. Come sappiamo, ad esempio, le nubi temporalesche sono molto più scure. Questo dipende dallo spessore e dalla densità delle nubi stesse, perché magari sono più cariche di queste goccioline di acqua. Ora, tornando alla domanda in particolare, cosa succede? Che quando i raggi solari giungono tra le nubi, avviene il fenomeno della rifrazione. Cioè, quando la luce passa attraverso da un mezzo trasparente ad uno con densità diversa, cambia direzione. Viene deviata. Viene deviata, essenzialmente questo avviene. Ad esempio, consideriamo una superficie che separa due mezzi aventi densità diverse. La luce verrà maggiormente deviata quanto maggiore sarà la differenza di densità tra questi due materiali. E dipende anche naturalmente dall'incidenza della luce sulla superficie stessa. Per cui maggiore è l'angolo di incidenza, maggiore sarà la luce deviata. Ecco, una precisazione. Il nostro Samuel diceva, ci hanno sempre insegnato che i raggi del sole sono paralleli, sì. Ma semplicemente perché il sole è talmente lontano, la fonte di luce è talmente lontana che noi li percepiamo come paralleli. Okay. E poi quelli che noi vediamo uscire dalla nuvola in tutte le direzioni sono solo una porzione, esattamente. Un sacco di altri rimbalzano anche saranno altri fenomeni, esattamente. Ecco, allora invece Edoardo si interrogava sulle luci tremolanti delle città e delle stelle. Sì, allora, se noi consideriamo questa città che è molto distante da noi, tra noi e la città c'è dell'aria, ok? Ora, l'aria è composta da diversi strati. Questi strati sono in movimento poiché c'è la cosiddetta turbolenza di bassa quota e naturalmente sono anche a temperatura diversa, perché sappiamo che la temperatura varia con l'altitudine, essenzialmente diminuisce. Ecco, sì. E poi ci sono anche in questo caso particelle corpuscolari, goccioline di acqua e così via. Ora, la superficie terrestre rilascia calore, per cui si viene a creare una specie di strato di aria calda sul suolo. Questa massa di aria calda ha un indice di rifrazione diverso dalla massa di aria fredda che si trova superiormente. Ora, la luce, quando attraversa mezzi con un indice di rifrazione diverso, essenzialmente devia dal suo cammino, e questa deviazione fa sì che noi vediamo le luci tremolanti. È un po' come il fenomeno delle autostrade quando d'estate è molto caldo. Esattamente, quando abbiamo una fonte di calore si genera questa massa di aria calda, per cui tutto quello che è dietro noi lo percepiamo come non nitido e tremolante, appunto. Certo. E per quanto riguarda le stelle invece è la stessa cosa, soltanto che sono distanti. Sono distanti, quindi diciamo che in prima approssimazione possiamo percepirle come nitide. Però se guardiamo più attentamente una stella oppure un qualsiasi altro oggetto astrofisico, avviene che anche in questo caso l'atmosfera fa sì che noi le vediamo in maniera sbiadita, sfocata, ecco, per l'esattezza, okay. Oppure tremolanti. Va bene. C'è un po' anche lì. Grazie Noemi, sì. noi dobbiamo andare al chiusura. Traffico. Ok. Il traffico adesso, vediamo cosa succede sulle nostre strade. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è un istituto qui a Trieste, l'Istituto Jacques Maritain, che è impegnato da una quindicina d'anni sui temi del dialogo interculturale, dello sviluppo urbano, delle comunità, delle scienze sociali, dell'educazione. Questo istituto ha organizzato qui a Trieste Next un appuntamento, un piccolo convegno che è dedicato a un tema però alquanto complesso, che è siamo ciò che non mangiamo, dobbiamo sottolineare. Rinunce, proibizioni e identità nelle pratiche alimentari. Esatto. A questo convegno intervengono diversi ricercatori e ricercatrici. Qui di fianco a noi c'è Arianna Ferrari. Buonasera Ferrari. Ciao a tutti. Ricercatrice in filosofia all'Istituto di Filosofia di Cachelieu. No, di tecnologia. L'Istituto di Tecnologia di Cachelieu. E poi abbiamo in linea Federico Neresini. Buonasera Neresini. Salve, buonasera. Sociologo all'Università di Padova. Questa è Perfetto. La sua attività di ricerca. Vediamo se riesco, avendo parlato con voi un po' prima della trasmissione, a inquadrare il problema. Perché il tema è complesso. Dobbiamo riuscire a inquadrarlo bene subito in partenza. Allora, che ci siano delle differenze tra culture e popolazioni in merito a quello che si mangia e non si mangia è un tema che noi in qualche modo conosciamo. Pensiamo tipicamente alle differenze di tipo religioso e sappiamo quante ve ne possono essere, per esempio appunto tra noi e gli indiani, noi ci mangiamo un sacco di carne, per gli indiani assolutamente inavvicinabile, insomma una mucca, una vacca, oppure anche differenze di tipo diverso per gli americani, per gli statunitensi il coniglio è come il gatto, ideologiche. E noi invece ce lo mangiamo in salmì. Allora queste sono differenze. Il coniglio, non il gatto. Non il gatto, certo, in altri posti mangiano pure il gatto. Esatto. Queste sono differenze significative, profonde, alle quali magari non si dedica giusta attenzione. Però la ricerca scientifica con i suoi sviluppi sta introducendo delle occasioni di ulteriore creazione di differenze. Neresini, direi che possiamo incominciare da lei, che si interessa appunto dei riflessi, che tutto ciò che riguarda i riflessi a partire dagli OGM. È questo che sta avvenendo. Beh, innanzitutto bisogna non dimenticare che nei confronti del cibo e dell'alimentazione la tendenza generale è sempre a essere molto conservatori, per cui di fronte al nuovo è facile che la prima reazione sia quella dell'opposizione, della perplessità, e in effetti nel caso degli OGM questo si è puntualmente verificato e abbiamo una situazione di tendenziale dubbio o cautela quantomeno nei confronti degli organismi geneticamente modificati. Di sicuro nel nostro paese, ma comunque una posizione sufficientemente abbondantemente consolidata in tutta Europa. Però che questo vada poi interpretato come una preconcetta opposizione al progresso scientifico, alla ricerca scientifica o alla scienza in generale è tutto da discutere. Questo può essere sbagliato, però le chiedo, lo sviluppo, adesso magari usciamo dagli OGM, quelli che si applicano all'agricoltura, però lo sviluppo della ricerca negli organismi modificati dal punto di vista genetico potrebbe addirittura creare, se ne parla, no? Se non sbaglio, creare addirittura degli animali che sono fatti per essere mangiati. Questo sarebbe decisamente un po' più inquietante. E lì il divario è ancora maggiore, perché uno decide a quel punto di eliminarli. La prima considerazione che farei è che noi in realtà viviamo in una cultura che fa degli animali perché questi vengano mangiati, direi da molti secoli, se non da qualche millennio. Certo, questa è una cosa che volevamo vedere subito dopo, certo. Chiaramente fa una certa differenza pensare, fa differenza pensare che si possa intervenire a livello genetico per produrre animali da mangiare di un certo tipo. Insomma, non sottovaluterei il fatto che da un lato è quello di modificare ciò che madre natura ci ha messo a disposizione per i nostri scopi, è una pratica che accompagna l'uomo da quando esiste, e dall'altro che, ripeto in parte quello che dicevo prima, cioè le tradizioni, le culture, gli atteggiamenti nei confronti del cibo sono molto radicati, molto profondi, e quindi nei confronti di ciò che suona come nuovo, come il caso di cui stiamo parlando, è facilmente la prima reazione, cosa che si verifica puntualmente. Arianna Ferrari, cosa possiamo dire su queste cose? Ma allora, secondo me la questione della novità e dell'essere perplessi di fronte alla tecnologia è sicuramente da un punto di vista sociologico, culturale, molto importante, ma non bisogna mai dimenticare i fatti. Non è esattamente corretto dire che solamente con l'ingegneria genetica si stanno ponendo delle possibilità di creare degli animali esclusivamente per essere mangiati. Vorrei dare solo qualche breve dato rispetto alla produzione del latte, per esempio, e alla selezione che c'è già dal punto di vista delle cosiddette tecniche tradizionali. Una mucca, se dovesse solamente produrre del latte per il suo vitello, darebbe una media di latte di 8 litri al giorno, quindi 2500 litri l'anno. Già dai primi anni 80, con tecniche tradizionali, di allevamento, la mucca da latte arrivava a produrre 4.300 litri di latte all'anno, a metà degli anni 90 fino a 5.500 litri e attualmente siamo sui 7.000 litri l'anno, alcune razze speciali arrivano fino a 10.000 litri, quindi le mucche già adesso sono, senza ingegneria genetica, semplicemente delle macchine di produzione del latte. La ricerca però sull'ingegneria genetica sta andando oltre e a livello sperimentale, quindi non esistono ancora animali transgenici introdotti nell'ambito commerciale dell'agricoltura, ma a livello sperimentale nei laboratori esistono una serie di esperimenti che hanno creato mucche geneticamente modificate in grado di soddisfare determinate esigenze del consumatore, per esempio produrre latte con proprietà alterate, ridotto apporto di caseina, per produrre degli yogurt diversi. Oppure ci sono, interessante il caso per esempio anche della modificazione genetica nei pesci, in particolare nei salmoni. C'è un salmone che cresce il doppio, è stato già brevettato, si chiama Aqua Advantage ed è ora in corso di analisi dalla Food and Drug Administration, che è l'autorità statunitense per la sicurezza alimentare, che deve decidere se metterlo in commercio o no. Infatti questi non sono in commercio, però ad esempio i pomodori che noi troviamo in commercio di fatto sono già una selezione, se ovviamente non genetica fatta in laboratorio, però diciamo che sono delle cultivar create quasi ad hoc, quasi, se vogliamo. Sì, sì, ovviamente l'ingegneria genetica, le biotecnologie introducono delle possibilità diverse e ovviamente c'è da fare anche una distinzione dal punto di vista direi normativo tra gli interventi sulle piante e gli interventi sugli animali, proprio perché gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare piacere e dolore. Però è interessante anche vedere come determinati valori e determinati scopi hanno comunque hanno caratterizzato la ricerca scientifica già da molto tempo, e quindi si può dire che l'ingegneria genetica in un certo senso porta avanti dei valori o degli scopi che c'erano già prima. Sì. Anch'io volevo portarvi su questo tema. Effettivamente quello che potrebbe accadere forse è questo, e cioè che abbiamo già un sacco di animali, di alimenti che nascono appunto, come avete detto, modificati, però le nuove tecnologie potrebbero far vedere in modo esasperato questa, no? Questa, esatto, possibilità. Non dico di avere i maialini che sono già a forma di fetta di salame, però in quel modo esploderebbe probabilmente a livello sociale una, esatto, sensibilità molto, esatto, forte. Dobbiamo immaginare di confrontarci con questo, esatto, che sta per avvenire. Questo forse quindi, è il tema. Quindi è interessante anche dal punto di vista teorico interrogarsi su quello che sono gli scopi e le idee che guidano la ricerca scientifica, perché ci possono essere, la ricerca scientifica non è ovviamente un'impresa neutrale, ma è sempre determinata e sempre si muove da scopi che l'uomo decide in contesti storico, esatto, in contesti storico-economici e culturali, e quello che viene fatto sugli animali è per aumentare sostanzialmente la loro produzione. Grazie Ferrari, grazie Neresini. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è un'emergenza nei nostri boschi, Federico. Guarda, la ripresina. Aspetta, perché adesso arriva il collegamento, ma lasciami dire agli ascoltatori. Allora, il problema è lo scoiattolo grigio americano. Grigio. Allora, sì. Shurus carolinensis, questo è il nome scientifico. C'è una videocamera. Ecco, la videocamera, adesso ci colleghiamo. Allora, lo scoiattolo grigio americano sta rubando, oltre che l'habitat, anche le ghiande allo scoiattolo rosso europeo. Mi pare che si stia avvicinando. Federico, non anticipare tronco. Nulla agli ascoltatori. Allora, Shurus vulgaris è il nostro, rosso europeo, che ai noi appunto sta scomparendo perché il grigio sta rubando l'habitat e le ghiande. Ecco. Le ghiande. La specie americana è tremendamente invasiva e lo sta portando all'estinzione. A questo punto la comunità europea corre ai ripari con un progetto che nelle nostre regioni, in particolare in Piemonte, dove il problema è gravissimo. Avvicinandosi alla porta. Lì c'è, fammi porta. Spiegare agli ascoltatori e poi arriviamo al collegamento. So che sei eccitato dal collegamento. Allora, in Piemonte, in Lombardia e in Liguria c'è da anni questo progetto e stanno cercando di correre ai ripari i nostri ricercatori. per evitare l'estinzione dello scoiattolo rosso. A questo proposito abbiamo un ricercatore dell'Università dell'Insubria di Varese che ci sta ascoltando, Adriano Martinoli. Ci senti, Adriano? Vi sento, vi sento. Ecco. Buon pomeriggio. Lei è lì vicino lì alla, alla tana, ecco, al tronco. Sì, sta predisponendo il collegamento. Allora, è una cosa piuttosto straordinaria. Una coincidenza assoluta. Esatto. Siamo in collegamento con la webcam con Adriano e stiamo per vedere che lo scoiattolo grigio si sta appropinquando alla tana dello scoiattolo rosso per il problema che ti dicevo prima. Insomma, questo è quello che dovremmo... Oltre a rubargli l'habitat, gli ruba le ghiande. Quindi è questione di secondi. Sì, riusciamo a collegarci. Sentiamo un attimo. Vediamo. Ecco, la scena è questa. Cerchiamo di raccontarla agli ascoltatori che stanno... Allora, qui siamo in un bosco e ci siamo. Scoiattolo grigio che si appropinqua alla tana dello scoiattolo rosso. Ecco. Ecco, si sta avvicinando. Sta salendo. Si sta arrampicando all'albero. Eccolo qua. Eccolo, eccolo. In effrazione. Sì, sì, si frega già le mani. È entrato nella tana. È americano. E l'altro sta dormendo, quindi immagino che il rosso cercherà di approfittarne. Ma che bambolone, ragazzi, si fa fregare tutte le piante. Ecco, gliele sta fregando tutte. Yes, ecco. Yes! Veramente. Cosa sta succedendo? Cos'è? Oh my goodness! Oh, ha lasciato il telefono acceso e l'altro? L'americano. L'americano. Adesso quell'altro si sveglia. Ma si sveglia. Certo. Il piemontese. Oh, mi signor. Adesso succede un disastro. Era un disastro. Un disastro. Era prevedibile. Un disastro. Che, che zuffa. È successo quello che... No, scusi, Martinoli. E qui è partita. Qui è partito il collegamento. La webcam ha urtato. Cioè, è successo un disastro. Non vediamo più niente. Ma scusi. Ma allora... Che bisogna intervenire con un commento. Ma Martinoli, è una scena che purtroppo accade davvero. Sì, accade davvero. È una sorta di furto con destrezza che lo scoiattolo grigio sta mettendo in atto da diverso tempo a scapito e a spese del nostro scoiattolo rosso europeo. Sì, ma Martinoli, ci racconti com'è possibile, come avete fatto soprattutto a vederlo? Sì, noi adesso l'abbiamo sceneggiato, però com'è che se le prende queste ghiande? Ma sostanzialmente, questo, tornando un po' più sul serio e spero non troppo sul noioso, sono state seguite delle popolazioni sia di scoiattolo rosso sia di scoiattolo grigio per diversi anni per approfondire quale fosse il meccanismo di competizione che portava a prevalere lo scoiattolo grigio sullo scoiattolo rosso europeo, sia facendo studi di dinamica della popolazione, sia facendo studi su come queste popolazioni di scoiattoli sfruttano le risorse alimentari. Come avete giustamente sottolineato voi, le ghiande, ma anche le nocciole, le noci, le castagne, insomma i frutti che vengono prodotti dai nostri alberi nei nostri boschi di pianura e di collina. Come fanno? L'americano è tremendamente invasivo, cioè si adatta meglio a qualsiasi ambiente, per questo forse. Sì, questa è una caratteristica che lo contraddistingue. Lo scoiattolo grigio americano si potrebbe dire molto più plastico in termini ecologici, si adatta molto meglio alle diverse situazioni. In più è grande il doppio circa del nostro scoiattolo, quindi necessita di una quantità di cibo giornaliero decisamente più elevata. Ma, scusi, ed è molto nella... più abile, ritornando al vostro caso documentato del furto con destrezza, è molto più abile a recuperare quei magazzini di cibo che gli scoiattoli, sia lo scoiattolo rosso, il nostro, sia gli altri scoiattoli costituiscono soprattutto nel periodo autunnale di grande abbondanza dei frutti per poi sfruttarli in inverno. Ma scusi, qui c'è un punto veramente cruciale, cioè non è che lo scoiattolo americano, essendo più abile, va a prendersi meglio le ghiande, va proprio dove le ha messe il rosso e gliele ruba. Entrambe. Esattamente. Forse entrambe, però è capace di individuare la casa del rosso, effettivamente. Perfettamente, per quello che usavo la metafora del furto con destrezza, è molto più abile anche per necessità, perché ha bisogno di mangiare di più del nostro scoiattolo rosso, riesce a recuperare quei magazzini dove lo scoiattolo rosso nasconde il cibo in prospettiva per utilizzarlo in inverno quando c'è meno disponibilità alimentare. Martinoli, ci dice come facciamo a riconoscerli? Che caratteristiche hanno il rosso e il grigio? Cioè, ottima domanda, perché adesso schematizzando parliamo di rosso e grigio, ma in realtà la colorazione del pelo, della pelliccia non è un carattere determinante, anche perché il nostro scoiattolo rosso ha una colorazione del pelo che può variare dal rosso carota fino al marrone scuro, quasi nero. In realtà la colorazione è meglio non utilizzarla. Le due caratteristiche principali sono che, soprattutto nel periodo tardo autunnale, invernale, primaverile, il nostro scoiattolo, lo scoiattolo europeo, quello rosso, ha dei ciuffi di pelo molto lunghi sulle orecchie, cosa che lo scoiattolo grigio americano non ha mai nel corso di tutto come la lince. La stagione. È un po' come la lince, ecco, esattamente. E come ci è arrivato il grigio da noi? Purtroppo è una di quelle forme che potrei definire di inquinamento ambientale ad opera dell'uomo. L'uomo ovviamente involontariamente, perché quando è stato introdotto lo scoiattolo grigio in Europa e poi anche in Italia non si conoscevano ancora quali erano gli effetti di competizione con la nostra specie europea. È stato importato da Nord America per motivi che potremmo definire ludici, per vedere un animale che è molto più confidente del nostro nei giardini, nei parchi pubblici o nei giardini privati, e è stato importato per la prima volta in Italia nel 1948. Vabbè, quindi non è da tantissimo che l'abbiamo, ma insomma si è dato da fare. Si è dato da fare. Senta, Martinoli, siccome credo che per intervenire su questa roba non ci possa essere l'arresto e il carcere, Si può fare? Cosa si può fare? Anzi, che cosa state facendo voi ricercatori di questo progetto importante sulla biodiversità? Ma ci sono diversi livelli a cui intervenire. Beh, innanzitutto il primo è cercare di bloccare il commercio di specie esotiche, cioè di specie che arrivano da extracontinente e che possono avere una forte invasività, cioè una volta radicate in natura possono creare dei danni molto forti agli ecosistemi locali. Quindi fino ad ora si possono acquistare, ecco. Sì, allora, okay. Diciamo che per completezza di informazioni il 2 agosto di quest'anno, quindi poco tempo fa, il ministro Clini ha firmato un decreto interministeriale che blocca il commercio, l'allevamento e la detenzione dello scoiattolo grigio. Bene, in Italia. Okay. Non ha ancora completato l'iter, però diciamo un primo passo in questa direzione formale. E per quelle fatto. Che ci sono già, cosa facciamo? Ecco, questo è l'altro problema. L'altro problema è non chiudersi gli occhi davanti a questa problematica, ma trovare dei sistemi per intervenire. Siccome il problema grosso della presenza dello scoiattolo grigio è appunto la competizione col rosso, quindi non possiamo pensare di lasciare in natura le popolazioni di scoiattolo grigio laddove ci sono le popolazioni di scoiattolo rosso. Occorre rimuovere le popolazioni dall'ambiente naturale. Il metodo per intervenire è quello che è già in atto per la zanzara tigre, per i ratti, per le nutrie. Ci sono dei piani regolati di abbattimento? Esattamente, di rimozione, più che di abbattimento, perché per abbattimento si presuppone l'intervento con i fucili, con l'abbattimento selettivo in natura. Qua operiamo facendo delle catture con trappole a vivo degli animali e poi intervenendo con una soppressione eutanasica, esattamente come si fa quando si ha il cane malato e purtroppo incurabile, quando lo si porta al veterinario per una soppressione, una morte dolce, chiamiamola. Senta Martinoli, allora abbiamo tartarughe che arrivano dall'Indonesia, abbiamo anche granchi, se non sbaglio, americani, per il momento non abbiamo tigri, ma c'è un problema molto vasto. È un problema vastissimo, il problema delle specie alloctone, invasive, aliene, cioè delle specie che sono importate artificialmente dall'uomo e introdotte in natura, è un problema molto grave a livello globale, è la seconda causa di estinzione dopo la perdita di habitat, quindi dopo le deforestazioni o l'ampliamento delle superfici urbanizzate. E questo a tutti i livelli, cioè a livello animale ma anche, lo sappiamo, vegetale. Esattamente. esattamente un problema che riguarda le specie di vertebrati terrestri o acquatiche, ma riguarda anche le specie botaniche, di piante, di alghe, di funghi, di invertebrati. È un problema veramente molto preoccupante, tant'è che l'Unione Europea proprio in questi mesi ha promosso la formazione di commissioni di lavoro con l'idea di arrivare probabilmente a una nuova direttiva comunitaria che tratti questo argomento per cercare di arginarlo nel miglior modo possibile e risolvere il problema. Cosa vede lei e gli altri ricercatori, cosa vede all'orizzonte di animali che stanno pericolosamente avvicinandosi? C'è qualche pericolo imminente? Beh, allora è molto difficile prevedere quali saranno le prossime specie che potranno assumere un ruolo qualche problematico. Qualche segnale però magari l'avete. Piante, animali, è molto difficile. Ultimamente si è notato che il trasporto è spesso un trasporto passivo attraverso le merci, i legnami che vengono importate con le navi, con gli aerei attraverso questo trasporto vengono anche trasportati uova, larve o insetti adulti. Microorganismi, sì, che forse sono quelli più pericolosi. Esattamente, perché poi è più difficile anche individuarli, localizzarli e intervenire su di essi. Ecco, questo. Martinoli, il progetto come il vostro, che appunto abbiamo detto è un progetto europeo, LIFE cosiddetto, che ha un'importanza, come stiamo sottolineando anche adesso, veramente rilevante. Ci dica lei, che è ricercatore, e per sensibilizzare anche il pubblico a casa, quanto è importante che questo tipo di progetti, insomma, vengano finanziati e continuino ad essere finanziati dalla ricerca? Ma è fondamentale perché purtroppo ci troviamo di fronte a due problematiche critiche per quanto riguarda soprattutto il nostro paese. Da un lato la carenza di fondi soprattutto nell'ambito della ricerca da un lato e della ricerca applicata alla conservazione della biodiversità. Questo è un problema molto forte se di pari passo analizziamo l'altro aspetto, cioè che l'Italia nell'ambito dei paesi europei è il paese che può offrire la miglior qualità in termini di diversità di habitat, di ambienti, di specie caratteristiche del nostro paese, che potrebbero diventare una risorsa molto importante se opportunamente valorizzate e conservate. Oserei dire al pari del nostro patrimonio storico, culturale e monumentale. Il problema è che gli scarsi investimenti, che probabilmente sono anche dovuti a scarsa sensibilità. Sì, non si capisce bene. Che vengono problema. Impiegati forse per altro. Esattamente, che vengono impiegati per altro e paradossalmente quando ci sono quei pochi investimenti nel settore della conservazione della biodiversità vengono spesso tacciati come spreco di risorse pubbliche. Quando poi da un lato ci lamentiamo che nessuno opera per un'adeguata conservazione del nostro patrimonio paesaggistico e ambientale in Italia. Va bene, grazie mille Martinoli, davvero buon lavoro e grazie anche per il collegamento. A presto. Grazie a tutti voi. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Stiamo per parlarvi di tre innovazioni, Chiara, che sono molto belle. Sì, molto... siamo sempre a Trieste, ricordiamolo. Stamattina abbiamo seguito un evento che si chiama Nord-Est Technology Transfer, dove ne parliamo spesso a Mebius, dove ricercatori, chi fa ricerca, incontra aziende o venture capital. Esatto, che vogliono investire nelle loro aziende. Ne abbiamo selezionato qualcuno perché tutti non li potevamo portare, hanno presentato un sacco di progetti. Andiamo veloci così diamo la possibilità a loro di raccontarlo. Tutti. Mauro Zamariana è venuto a trovarci, lei ha progettato Free Air Baby, un innovativo sistema per i passeggini. Buonasera. Buonasera. Il progetto che stiamo sviluppando parla proprio di questo argomento, vuole affrontare il tema del miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e soprattutto in ambiente urbano e soprattutto durante il trasbordo all'esterno. Quando si va per strada. Sì, quando si bambino. Va per strada col bambino nella carrozzina, nel passeggino, normalmente ad altezza scarico e quindi il bambino ne soffre e avrà poi nel seguito, può avere nel seguito dei problemi di salute. E perché poi non è solo un problema di altezza, ma in generale un bambino immerso nel traffico piccolo ha un sistema di respirazione, insomma, per cui riceve molti più danni, no? Riceve molti più danni, e il problema di fondo è che gran parte delle malattie poi croniche derivano proprio dai primi anni d'età. Questi sono studi ovviamente effettuati da in generale. Va bene, arriviamo a voi. Ci sono un sacco di vignette da anni di bambini con la maschera antigas. Che fanno l'aerosol. Esatto. Nel quello che noi stiamo cercando di fare, che stiamo portando avanti con questo progetto, è appunto lo sviluppo di una capote che si vada a sostituire alle capote classiche delle carrozzine dei passeggini, che permette di filtrare l'aria, migliorando quindi la qualità dell'aria all'interno dell'abitacolo. Qual è la particolarità? È che non esiste una barriera fisica, ossia il bambino non è chiuso in una capsula di vetro, ma c'è un contatto diretto fra genitore bambino e bambino e mondo esterno, e quindi si riesce ad avere appunto il lato positivo del viaggio e del contatto, migliorando però le condizioni all'interno. Avete già brevettato? Abbiamo già brevettato, il brevetto è stato depositato. Adesso siamo in fase di ricerca e sviluppo applicata e avanzata, proprio per arrivare al prodotto definitivo pronto per la commercializzazione. E sarà una decapottabile che bisogna comprare di per sé, oppure la capote si adatta ai passeggini esistenti? La capote si adatta, è stata pensata per essere adattata all'esistente, in modo tale che chi ha già effettuato un investimento anche importante per acquistare il passeggino, la carrozzina o mezzi del genere, possa semplicemente sostituirlo. Io credo che gli ascoltatori di 1-2 anni siano molto felici di sentire che sta per arrivare questa. Grazie. E grazie, poi ci ha raggiunto Maria Pia Francescato invece, che ha anche lei un bellissimo progetto sui giovani diabeti, per permettere loro di fare attività fisica, perché purtroppo se no ne sarebbero comunque impossibilitati o dovrebbero avere delle attenzioni molto molto particolari. Esatto, il progetto del quale mi occupo io essenzialmente vuole aiutare i pazienti che sono dipendenti totalmente dall'insulina. Noi abbiamo lavorato sugli adulti, però la patologia inizia in età pediatrica molto spesso, quindi abbiamo ancora una fascia d'età un po' da sviluppare in merito. Aiutarli a fare dell'attività fisica, a poter partecipare alle attività sportive senza incorrere in squilibri glicemici. Perché quindi, succede infatti? Ecco, questi pazienti hanno perso per la loro malattia la capacità di autoregolare la quantità di insulina circolante nell'organismo, dipendono quindi dalle iniezioni di insulina esogena, e durante l'attività fisiologicamente tutti noi facciamo calare la concentrazione di insulina. Questo non può succedere nel paziente, quindi nella maggior parte dei casi della giornata il paziente, se fa dell'attività, ha una concentrazione eccessiva di insulina in circolo e questo lo porta a rischio di ipoglicemia. L'ipoglicemia non c'è molto margine. Ecco, quindi se la concentrazione del glucosio va troppo giù, si rischia anche il coma. Certo. Cioè, quindi condizioni molto pericolose, condizioni in cui, senza arrivare al coma, il soggetto perde la conoscenza di dov'è. Quindi vanno regolati molto bene questi livelli? Sì. I livelli andrebbero regolati molto bene. Però, allo stesso tempo, il diabetico deve fare esercizio, cioè gli è molto utile? Nel paziente diabetico di tutti i tipi l'attività fisica è assolutamente consigliata, come lo sarebbe per tutti noi. L'attività fisica è preventiva delle malattie cardiovascolari. Certo. Il diabete certo. È una malattia che già espone a un maggiore rischio cardiovascolare, quindi l'esercizio sarebbe assolutamente consigliato. Ecco. Adesso cosa fanno? Vanno a caso? Insomma, non c'è un adesso sistema. Adesso al paziente viene consigliato, vanno a caso, è una questione di a suon di prova e riprova, trovano un loro escamotage. Chi è realmente seriamente convinto di voler fare attività fisica? C'è un lavoro scientifico, non mio, purtroppo, già sarebbe stato troppo bello che fosse mio, che descrive l'importanza. Di un grosso gruppo che ha intervistato un vastissimo gruppo di pazienti, ne è emerso che la paura dell'ipoglicemia è il motivo fondamentale per cui rinunciano a fare attività. E quindi avete pensato ad un sistema che possa in qualche modo consentire esatto, a tutti. Abbiamo sviluppato un algoritmino. L'algoritmo può essere implementato in svariati modi, nel senso che può essere messo su un sito web e accessibile via internet. Noi avevamo pensato a una comunicazione via SMS, abbiamo sviluppato un'app per gli smartphone. Si può pensare a uno strumentino ad hoc, si può pensare di aumentare, diciamo così, la quota software dei glucometri che i pazienti adottano, che usano comunemente, quindi mettere una funzione in più. Sì, ma dovete prendere un segnale dal paziente? Diciamo che no? Non è indispensabile. Forse ci più avanti sono, sì. Ci sono due elementi. C'è una prima fase di previsione in cui io, sapendo più o meno, perché non è sempre precisissimo, a quale intensità il paziente vuole fare l'attività e per quanto tempo, vado a prevedere quanto glucosio, quanto zucchero deve prendere. La seconda versione è quella che mi consente anche di lavorare in real time. Allora, prelevando la frequenza cardiaca, il paziente è in grado, e se lo strumento rileva la frequenza cardiaca, potremmo ipotizzare uno strumento che inizia a vibrare, inizia a segnalare al paziente: fatti una glicemia, che forse sei a rischio. A rischio. Okay. E questo renderebbe ancora più facile per il paziente usare lo strumento, perché significherebbe: io voglio andare da qui in centro, certo, non so quanto tempo ci metto, non so quale sarebbe la mia frequenza cardiaca, l'intensità dell'esercizio, faccio partire la cosa, gli dico protetto. Qual è la mia glicemia, gli dico che ho mangiato la caramella, no? Quando il sistema si accorge che io sono a rischio, mi segnala: guarda che sei a rischio. Un sistema di questo tipo, che migliora così tanto la vita di una persona, potrebbe essere dentro un'applicazione di un smartphone? Noi ce l'abbiamo sotto forma di applicativo anche, cioè versione ci avete pensato al momento sperimentale, anche come app per lo smartphone, certo. Va bene, grazie, bello e davvero grazie. Complimenti Francesca, grazie. In bocca al lupo. Grazie. E ora ci ha raggiunto qua Francesca Finotello. Ecco, lei ha presentato anche lei un bel progetto, un dispositivo contro il colpo di sonno alla guida. Una mano meccanica che dà delle sberlotte. E ci vorrebbe effettivamente. Buonasera a tutti. Buonasera. E il progetto che abbiamo presentato noi, appunto, è un dispositivo elettronico per contrastare i colpi di sonno. È basato su tecnologia EEG, cioè l'elettroencefalografia, che praticamente è la tecnica di base in realtà per lo studio dell'attenzione, le fasi del sonno, eccetera, quindi è la tecnica di riferimento, perché quello che fa è andare a leggere l'attività cerebrale, quindi l'attività elettrica cerebrale, per identificare, diciamo, i cambiamenti di stato, appunto, dell'attività cerebrale umana. Quindi, ma dovremmo andare in giro con un casco, con degli elettrodi? Non è una cosa enorme, no. nel senso che nella nostra prima progettazione consiste di fatto in un cerchiello con tre elettrodi, che sembra una parola un po' inquietante a volte per chi magari non l'ha visto, ma sono degli elettrodi che devono semplicemente posarsi sul capo per avere il contatto e appunto poter misurare questo segnale. Quindi da un lato magari effettivamente rispetto ad altri sistemi che sono integrati nell'auto e analizzano lo stile di guida, per dire, perché so che ci sono queste soluzioni, ha questo diciamo lato, se vogliamo, più scomodo, nel senso che deve essere indossato però effettivamente gli effetti alla fine finali sono, cioè i lati positivi sono molti. Ma perché l'entrata in una dimensione di addormentamento dà subito, immediatamente, rapidamente un segnale? In realtà ci sono diversi effetti, per dire, ci sono per esempio i blink degli occhi che possono essere visti non solo visivamente guardando in faccia una persona, ma si vedono, certo, a livello del segnale. Questi blink cambiano in frequenza quando una persona è molto stanca, ma proprio il segnale cerebrale dimostra, diciamo, lo stato di stanchezza, senza contare poi l'addormentamento vero e proprio, quindi la chiusura degli occhi, che nel segnale è abbastanza chiaro. Quindi di fatto il nostro lavoro principale fino ad ora ha consistito nel andare ad indagare come cogliere questi segnali per poter effettivamente riconoscere. E poi come ci svegliamo? Esatto, cioè cosa viene fatto? Viene lanciato un segnale a un meccanismo che c'è nell'auto, che fa qualcosa. Nascosto. E quello che abbiamo pensato è un segnale sonoro e forte, a vibrazione per svegliare, diciamo, preventivamente in realtà, perché alla fine andando a monitorare la stanchezza e non solo l'addormentamento immediato, ma riuscire a dare una segnalazione preventiva è quello di far capire al conducente, sì, che forse, sì, è il momento di fare una sarebbe pausa. Sarebbe perfetto installarlo all'interno dei caschi. All'interno, sì, dei caschi? Per le moto sarebbe... È un'applicazione che abbiamo pensato, ecco, in realtà anche per il passeggero, a pensarci, perché sulla moto effettivamente anche... Qui mi dite che, voi evidentemente lo sapete, che c'è della gente che riesce ad addormentarsi andando in moto? Sì. Soprattutto dietro, ha ragione. Sì. Perché magari c'è il fidanzato che costringe la ragazza a farsi chilometri in giro, la ragazza si siede. Quella ragazza che sta in alto, perché sì, le moto sono... No, questo non lo immaginavo. So che nelle auto si pensa per esempio a una vibrazione da trasmettere al volante, sì, forte. Sì, scossone. Eventualmente nel futuro, potendo interfacciare il sistema con l'auto, i sistemi integrati nell'auto, effettivamente questo sarebbe più efficace. Però il bello appunto rispetto ai sistemi che sono già integrati e che analizzano lo stile di guida, che alla fine l'attenzione è proprio sul guidatore, sul suo stato di stanchezza e non sugli effetti della stanchezza, quindi uno magari fa troppe correzioni col volante eccetera, preme un po' meno sui pedali, quindi c'è più l'attenzione effettivamente sulla stanchezza vera e propria. Va bene, grazie Finotello, in bocca al lupo. Ottima idea. Anche a voi. Crepi, grazie. Buon a voi lavoro. Un po' mi dispiace. Eh sì, è finita. Dobbiamo rifare le valigie e tornare a casa. Le trasferte non sono facili tecnicamente, quindi dobbiamo assolutamente ringraziare tutti quelli che ci hanno assistito. Sì, tutto il team di Radio 24, la Elena Ligios, Filippo Aureggi, regia che ci ha seguito, Davide Ciocia che ha permesso tutti i collegamenti tecnici. E noi dobbiamo tornare, Fede. Dobbiamo tornare a casa. A casa. Qualche cosa però ci riporteremo, di Trieste. La prossima Next settimana vi portiamo dei regalini altre da Trieste. Buona settimana. Buona settimana a tutti.